Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo undicesimo. Resta ora di lucidare una questione, la parte cioè che la mafia, intesa nel suo doppio significato di spirito di ribellione alla legge e di associazione di malfattori, ha potuto avere nella consumazione di un reato che giustamente ha commosso e commuove l'Italia, nell'assassinio del notar Bartolo, e soprattutto nello scandalo maggiore che a questo reato si connette, la lunga impunità degli autori dell'assassinio. In altre parole, quella serie di fatti gravissimi che, messa in luce dalla pubblicità del processo di Milano, preoccupa seriamente tutti coloro che vogliono che l'Italia sia un paese veramente civile, si deve unicamente a cause locali, al morbo speciale che travaglia la sola Sicilia. Oppure essa è anche il frutto di debolezze generali a tutta l'Italia, di un morbo più diffuso, se non più grave, che inquina tutto il nostro paese? L'indagine credo sia utile ed opportuna perché nei malanni morali delle nazioni, come in quelli fisici degli individui, una diagnosi esatta, chiara e precisa è il fondamento necessario di ogni cura razionale. Or ci fu in Italia un'epoca, ancora non molto remota, durante la quale l'ignoranza del pubblico nelle cose bancarie, un concetto allora prevalente fra governanti e governati, concetto che purtroppo non è ancora del tutto condannato, secondo il quale l'interesse pubblico corrisponderebbe alla somma di alcuni interessi privati. L'ignoranza, ed anche una certa elasticità di senso morale di coloro i quali incombeva il dovere di impedire che le nostre banche di missioni violassero la legge dei loro statuti, fecero sì che in materia bancaria legge e statuti fossero semi-clandestinamente e talora anche pubblicamente quasi per sistema violati. Fu così che venne ad esempio autorizzata una nuova emissione di carta moneta allo scoperto per sovvenire imprese e banche private pericolanti, che l'essere l'uomo politico o la raccomandazione di un uomo politico fu considerato titolo quasi legittimo per ottenere uno sconto più largo dalle banche di emissione e che queste vennero perfino tacitamente autorizzate, seppur non furono incoraggiate, a giocare in borsa a pro del rialzo dei nostri titoli di Stato e di quelli delle nostre imprese sovvenzionate, reputandosi che con ciò rendevano un servizio alla nostra economia nazionale. L'imbroglione è come il diavolo, non gli si può dare un dito senza che vi si acciuffi la mano con tutto il braccio e vi trascini seco all'inferno. Una volta che, col permesso o per ispirazione venuta dall'alto, si era in materia bancaria uscita dalla legalità, una volta che si erano permesse cose non pubblicamente confessabili, che il confine tra lecito e l'illecito non fu più nettamente segnato, diventò facile ad una corte di faccendieri e concussionari che aveva i suoi rappresentanti fra uomini di affare nelle stesse banche e nelle amministrazioni locali e nel Parlamento ordire a vantaggio proprio e a danno degli istituti di missione, dello Stato e del pubblico, una rete intricatissima di loschi affari, nei quali la semplice indelicatezza presto degenerò in falsi, in truffe e in altri reati contemplati dal codice penale. Come quasi tutti gli altri istituti di missione, il Banco di Sicilia subì anch'esso il suo assalto. Lo subì pesantemente verso il 1890, l'anno in cui, per ragioni ancora non ben chiarite, fu rimosso dalla sua direzione il notar Bartolo. Però questo attacco fu più tardivo e più timido di quelli analoghi che ebbero a soffrire la Banca Nazionale e il Banco di Napoli o incontrò maggiori resistenze. Tanto vero che il Banco Siculo rimase in condizioni relativamente buone ed è ancora il più piccolo ma il più solido dei nostri istituti di missione. Quando, negli ultimi giorni del 1892, le rovine economiche e morali prodotte dagli errori e dalla debolezza dei nostri governanti cominciarono a svegliare il pubblico, quando gli uomini che da anni ed anni predicavano inascoltati contro la nostra politica bancaria, i professori Pantaleoni e De Viti De Marco poterono fornire ai deputati Colaianni e Gavazzi la prova degli abusi, delle illegalità bancarie commesse con l'acquisiscenza di alcuni dei nostri governanti. Quando si capì che il carnevale dei furfanti accennava a finire, si parlò di conti da rendere, di inchieste amministrative e parlamentari da fare. Allora i concussionari annidati nel Banco di Sicilia videro il pericolo e pensarono ai modi opportuni per scongiurarlo. A questo punto soltanto, il fenomeno delittuoso generale a tutto il paese assunse uno spiccato carattere regionale. La lebbra comune a tutta l'Italia si complicò in Palermo con un'infezione locale. Notar Bartolo era l'uomo competentissimo, energico, inesorabile con i disonesti, che avrebbe saputo e potuto illuminare l'opinione pubblica, che avrebbe ben guidato il braccio della giustizia contro i veri colpevoli, e questi stabilirono di sopprimerlo. L'atroce progetto poté in Sicilia essere concepito e maturato più facilmente che nelle altre parti d'Italia, perché nell'isola, grazie allo spirito di mafia e dai contatti fra le classi ricche e le cosche mafiose, l'idea della violenza sanguinaria più facilmente si affaccia nella coscienza torbide di quel che avverrebbero in Lombardia, in Piemonte e in Toscana, e l'omicidio non vi suscita quella ripugnanza assoluta che altrove sarebbe sentita anche nella classe poco rispettabile dei concussionari e degli imbroglioni altolocati. Aggiungo che a Palermo fu facile a qualcuno dei prevaricatori del Banco Sicilia, mercé rapporti intimi che aveva con le cosche mafiose, di trovare fra questi il sicario Provetto, vero dottore nell'arte del misfare, che con audacia, sangue freddo, incredibili, tutto calcolando e tutto prevedendo, seppe compiere la nefanda strage. E si sa che aver pronto ed efficace, alla portata della propria mano, lo strumento del male è grande tentazione a commetterlo. Ma appena compiuto il misfatto e sparito il suo autore materiale, il fenomeno delittuoso perdette di nuovo il carattere locale e riacquistò quello nazionale. No, non fu la mafia, come ancora molti l'immaginano, non fu una grande e misteriosa associazione di malfattori che ha i suoi affiliati in tutte le classi sociali ed avvolge tutta la Sicilia nelle sue spire, ciò che impedì che gli assassini del Notar Bartolo fossero scoperti e puniti. Né fu e non poteva essere la mafia come realmente è, perché una cosca mafiosa non riesce a sviare il braccio della giustizia quando questa vuole realmente colpire e distruggere un sodalizio criminoso che ha perpetrato un reato grave, di quelli che lasciano nel pubblico un'impressione forte e duratura. E neppure quella specie di paralisi di cui nel caso Notar Bartolo fu colpita la magistratura inquirente si può spiegare col fatto che nel reato poteva essere implicato un membro del Parlamento che aveva rapporti intimi con qualche poliziotto di secondo ordine. I buoni milanesi, che ora esterrefatti cercano la spiegazione di tante debolezze, di tante acquiescenze dell'autorità di Palermo, se vogliono davvero capacitarsi del triste mistero, non occorre che guardino alla lontana Sicilia. Basta che ricordino un altro processo svoltosi dalle origini alla fine molto vicino a loro, nel quale si è pure manifestata una lunga impotenza della polizia e della magistratura nel colpire persone altolocate implicate in truffe bancarie. Basta che pongano mente alla lunga impunità di cui ebbe a godere Filippo Cavallini. Questo arresto, o almeno questo incaglio che hanno subito le funzioni delle nostre autorità poliziesche e giudiziarie, ogni volta che si è trattato di scoprire e punire un reato intimamente connesso a grossi abusi bancari, si spiega in una maniera identica per tutta l'Italia. E la spiegazione è grave ma semplice. Quella stessa serie di errori e di colpe che rese possibile fra noi lo spesseggiare dei reati bancari ne ha prodotto la semi-impunità. Essa è dovuta al fatto che attorno al circolo, relativamente scarso, dei veri concussionari, vi è stato un circolo molto più grande, nel quale è entrata buona parte del nostro mondo politico, e di cui componenti consentirono che dalla legge si uscisse, che irregolarità fossero consumate, senza volerlo, senza quasi saperlo, furono avvolti in una specie di complicità coi concussionari, perché hanno con essi segreti comuni, che costituiscono il vincolo terribile per il quale sono costrette ad aiutarli. E da Palermo, attorno al piccolo gruppo di omicidi che maturò e preparò l'assassinio del Notar Bartolo, vi è stato il gruppo molto più numeroso dei semplici truffatori, che dell'omicidio non furono neppure scenti al momento della sua perpetrazione, ma che legati agli assassini da rapporti inconfessabili. Hanno dovuto in ogni modo aiutarli, ed attorno al gruppo abbastanza grosso di truffatori vi è stato quello grossissimo dei tolleranti degli acquiescenti alle truffe, quel gruppo che in tutta Italia passivamente ed anche attivamente, per quanto a malincuore, ha aiutato i ladri delle banche.